Siamo state convocate anche noi. Grazie mille. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'interista medio va quasi mai allo stadio e al massimo tripudio gioisce nel suo studio. Lo Juventino di Torino è una specie quasi in estinzione, mentre il vecchio romanista che festeggia lo scudetto non si accorge che la figlia va col suo laziale a letto. Questo paese che annona lavoro, soldi e sobrietà, ci vede uniti solo la domenica. Un gol, ci devi fare un gol per questa vita, un gol per arrivare a fine mese, un gol ci devi dare, il gol anche di mano, un gol per poi pagare le tue spese. Convocati e convocate di tutto il mondo, vi saluto. Tanto sito di Radio 24, meraviglioso, potete ascoltarci dall'Australia, così come dalla Nuova Zelanda, così come dall'isola di Papua e dalla Nuova Guinea intera. Non è il compleanno di Francesco Baccini, come ieri lo era di Mina, ma ci andava di farvi sentire questa canzone. Così è, se vi piace. E anche se non mi piace, 800 24 00 24, il numero verde. Pardo sta vidimando, si dice così, un biglietto ferroviario, tra poco lo recuperiamo. Mentre aspettiamo l'Italia in Bulgaria sabato sera, magari anche Francia-Brasile di questa sera, che potrebbe, pur essendo amichevole, essere uno spettacolo migliore. Poi ci sono un sacco di europartite che vedrete tutte in diretta, in televisione. C'è Spagna-Ucraina, c'è la Germania che non è messa benissimo nel suo raggruppamento, dietro la Polonia e a braccetto con l'Irlanda. C'è Capello che sta tirando con i denti questo rapporto con la Russia, si gioca tutto in Montenegro. Argomenti di cui parleremo domani con i risultati sul tavolo, ma ce ne sono molti altri di cui parlare oggi. Tanto saliamo nella pista di valzer degli allenatori, perché oggi su tutti i giornali Spalletti già a Napoli, e poi chi c'è? Mazzarri va a Roma, il Milan ha una nuova idea che è quella di Ventura. Parleremo anche di questo, Nell'attesa, ieri sera Lucianone Moggi si è presentato in questo studio, ospite della Zanzara, e manco a dirlo, ci mancava solo questo. Cercava appoggi da voi. Tavecchio forse gli hanno fatto dire questo, perché non mi sembra che possa dire cose del genere. Le può anche pensare, ma non le può dire. Le può anche pensare, però mi sembra esprimersi così, perché sennò bisognerebbe rivangare un passato che praticamente non è neppure il caso di rivangare. Cioè, qual è? Perché squadra ti fa Tavecchio? Inter. Ha seguito l'Inter anche nelle coppe europee. Cioè, interista sfegatato. Sì. Juventino di Torino. Non è lo Juventino di Torino, ma l'interista della provincia di Como, Carlo Tavecchio, secondo Moggi, sfegatato interista. Però non è stato lui ad assegnare quello scudetto, risulta. Pare sia stato un altro interista di provata fede che conoscete. Tanto, dicevamo, nazionale, ci scopriamo alle dipendenze dal punto di vista del gioco di un Verrattino sempre più determinante e al centro, finalmente, che sia la volta buona dei progetti azzurri. Sicuramente qui in Italia vogliamo, il mister cerca un gioco con molta intensità, comunque che ci sta facendo capire veramente tante cose, e ogni giorno che passo qui comunque riesco a capire molte cose in più. È un grande allenatore, sotto il punto di vista tattico penso che sia il migliore che abbia mai avuto, quindi sono contento comunque di lavorare con lui e piano piano comunque sto cercando di capire il prima possibile. Andoriani non ne parlo. Grazie all'ascoltatore che mi invia un SMS dicendo che il biglietto del treno, come quello che sta facendo Pardo, non si vidi ma si obliterà. Quindi Pardo sta obliterando il biglietto del treno, ma sta finendo e tra poco lo troviamo, subito dopo il traffico. Vi invito 800 24 0024 anche per dirmi, ne parliamo poi anche di questo. Allora, coppia d'attacco della nazionale, io leggo gli score degli attaccanti a disposizione di al dipendenza di Conte. Zaza 8 gol, proprio ammunizioni che gol in questo campionato. Immobile una decina in totale in una stagione molto grigia, e pare che Leggo stia vendendo la casa tedesca, vorrebbe forse tornare in Italia. Pellè non segna dal 20 dicembre e eccetera eccetera, altri non ci sono, altri non ce n'è, quindi giocheranno questi. C'è Gabbiadini, sì, ma che non è un attaccante puro, anche se è il più in forma di tutti. Qual è la vostra coppia gol? 800 24 0024. Parleremo naturalmente, e questi sono, non c'è pausa per le nazionali, ma ci sono due appuntamenti importanti per i motori. Si corre in Malesia con la Formula 1, in Qatar apertura del moto mondiale, torna Alonso che ha anche parlato. Non ho letto niente fino una settimana e mezza dopo, qualcosa, poi li ho preso con umore, come sempre devi fare, no? Certo, come dico, l'ansia di sapere più notizie di quelle che si potevano sapere creava questa nuvola di questo tsunami di teorie, però sì, ne sono svegliato al 95, ne sono svegliato parlando italiano, né tutte quelle cose che sicuramente le prendi con umore. Gioisce nel suo studio. Tanto non lo sapremo mai. Traffico. Prima però il mucchio selvaggio. Tutti convocati. Ed eccolo qui, è arrivato Pierluigi Pardo. È arrivato ma sta per partire, oggi non è nemmeno qui con me. Ciao Pier. Ciao, come va? Tutto bene? Benissimo, e lei? Molto bene, molto bene. Molto bene, molto bene. Ottimismo. Senti, ma pensa se ci mettono anche gli stage per la nazionale e magari, magari fermano perché fermano il campionato. Ma Antonio, io ti voglio bene. Antonio, però è agghiacciante. No, ma lui fa il suo dovere, l'abbiamo detto. Io ho sostenuto la candidatura come CT perché pensavo, e ne sono sempre convinto, che lui sia l'ideale se c'è da guerreggiare, e oggi per un CT di una nazionale il primo nemico tra virgolette sono gli interessi delle squadre di club, legittimi e ovviamente strapagati, quindi Antonio si batte come lotta, direbbe Parenzo, no? Si batte come un leone e cerca di tirar fuori il massimo possibile. Non è facile, perché è chiaro che tutto il mondo del calcio è in massima parte pagato non dalle nazionali ma dai club. Sì. Le nazionali rimangono una sorta di presidio romantico in un mondo dominato ovviamente dalla passione, dall'interesse, dagli interessi delle grandi squadre, e devo dire che anche i tifosi poi secondo me mediamente durante l'anno della nazionale se ne fregano abbastanza, no? Sì, e fregano poi abbastanza, ci sono europei e mondiali, e lì esatto, lì entri in gioco la nazionale che altrimenti adesso viene vista come un'opportunità di fare delle vacanze. Non so se farà delle vacanze Tancredi Palmeri, pluricorrispondente. Fai vacanze? Ma quali vacanze? Tuttavia devo dire una cosa, se c'è una roba che è bella della pausa della nazionale, è che finché sei tifoso, appassionato, la guardi a casa e dici no, basta, fateci guardare tutto il campionato. Quando però sei giornalista, insomma, non dico una settimana, ma quei 2-3 giorni che ti puoi prendere di vacanza in mezzo non ti dispiacciono, devo dire. No, non ti vai a vedere Spagna, Ucraina o la Russia che spareggi Montenegro. Pardo va a vedere la Russia che spareggi Montenegro, ad esempio. Dai, io vado a vedere Portogallo-Serbia domenica sera, capisci? Fa benissimo. Dov'è? A Porto? Dov'è? No, Lisbona, che non è bella come Porto, però insomma, vabbè. Bravo. I ragazzi si applicano qui. Tu lo sai, io ho vissuto un anno a Porto, per cui. Esatto. È un suo sportista. Ragazzi, sono sportista. Intanto si legge, io poco fa parlavo di Napoli, del Napoli, eccetera, dove Pardo sta per andare. Oggi su tutti i giornali, poi apriamo anche questa parentesi, questo rivolo, perché valsa degli allenatori, un grande classico di quando ci sono le pause per la nazionale, ne parliamo anche con voi 800 24 0024. Morale su tutti i giornali adesso si legge di Spalletti per la panchina del Napoli per il dopo Benitez. Ti piace Pardo? Guarda, io ho letto quella pagina lì e non voglio essere... Quelle pagine lì, perché c'è su un sacco di giornali, compreso il Mattino. Voglio essere, però insomma sono pagine legate appunto alla noia che proviamo tutti in questi giorni qui nel riempire i giornali. Senso di panica. Cioè, guarda il Milan ha tipo 4 allenatori col 20%, 2 col 10%, hanno fatto un gran lavoro, quelli della Gazzetta, gli facciamo i complimenti, però è uno sforzo, è lo sforzo di fare un dibattito. Ci sono ancora mille variabili, che Spalletti possa essere un allenatore spendibile per il Napoli non ci sono dubbi, ma secondo me è spendibile anche per il Milan, tanto per fare un esempio, è spendibile anche per altre squadre, insomma le percentuali le ho lette tutte stamattina sulla Gazzetta, hanno chiaramente un loro senso logico, però insomma sono discorsi molto teorici, nel senso che da qui fino al momento delle scelte ci sono mille variabili da considerare. Anche se noi abbiamo, tu soprattutto l'hai sottolineato molte volte, questo nervosismo strano di Rafa Benitez, secondo me che contagia la squadra, questa secondo me è davvero una delle ragioni dell'andamento altalenante del Napoli, Tancredi? Ma qui ha giocato, dice che quando c'è il rischio che l'allenatore vada via, o addirittura quando c'è la certezza, beh, quello è un altro discorso, ma quando c'è il rischio, insomma, il giocatore si impegna fino a un certo punto, perché o quantomeno si impegnano, è spronato a dare tutto fino a un certo punto perché sa che la continuità è relativa. Un po' se ci pensiamo per capire la situazione, un po' come quando qualsiasi persona che ci ascolta che ha un capo ufficio o anche in un giornale, insomma, c'è un direttore, un capo direttore che sa che non è sicuro che rimanga, non è che non fa il suo lavoro, per carità, quello è mancanza di professionalità, però nel momento in cui bisogna dare tutto alla morte non è forse esatto completamente dietro. Poi però sta anche la capacità dell'allenatore, perché gli interisti, i giocatori interisti lo sapevano da un mese e mezzo che Mourinho sarebbe andato al Real Madrid, e quelli del Bayern lo sapevano da Natale che anche se sarebbe andato via han fatto il triplete. Sì, ma questo è vero, e secondo me si lega al fatto che noi spesso parliamo e condanniamo, no, la cultura del risultato a tutti i costi, l'idea che poi porta a delle cose bruttissime e violente, l'idea che i giocatori perdano apposta. Non è così, è solo che il calcio a questo livello è un gioco di eccellenze, dove se tu fai 9 e l'altro fa 10 già è finita, perché tu hai dato molto ma non hai dato tutto quello che avevi, non hai scoperto dei limiti inferiori del tuo corpo, della tua tecnica e della tua testa, quindi è esattamente questo elemento qui. Io mi ricordo sempre l'esempio della Lazio del 2000-2001, la Lazio perse tipo 15 punti perché Eriksson aveva annunciato che sarebbe andato a allenare in Inghilterra, arrivò Zoff che è un buon allenatore ma insomma non è che fosse il santone, no? E con delle piccole mosse molto pratiche riportò la Lazio addirittura a per lo scudetto fino praticamente all'ultima giornata, poi con lo scudetto l'ha vinto la Roma, ma probabilmente con Zoff tornato qualche settimana prima la Lazio avrebbe avuto ancora più possibilità, eppure insomma... Ma guarda che ho la sensazione che questo sia un male sottile che ripeto è comune al Napoli ma anche alla Roma, avrai letto, vabbè, che a parte Garcia si parla di rivoluzione totale. La Roma la vedo più al contrario. Perché? Vedo più la conseguenza, cioè vedo più il fatto che forse Garcia andrà via perché la squadra è in crisi, non che la squadra è andata in crisi perché Garcia doveva andare via, perché Garcia fino a due mesi fa sembrava assolutamente saldo a vita sulla panchina più della Roma. Di quindi insomma dai, secondo me questo invece no, non è quello il caso. È chiaro che in questo momento, fra i vari elementi di incertezza che ci sono nel mondo giallorosso, c'è anche, ma legittimamente, il fatto di capire che farà Garcia l'anno prossimo, nel senso che se la Roma non dovesse centrare la Champions League, ci può stare l'idea di cambiare. Vedo da questo punto di vista, sempre leggendo la Gazzetta di oggi, che l'ipotesi Mazzarri è un'ipotesi molto molto probabile, secondo me è anche un'ipotesi sana e giusta. Dici? Secondo me sì, se dovesse andare via Garcia, io sono convinto che Mazzarri sia un allenatore che avrà una grandissima voglia di spaccare il mondo, credo che non sia un allenatore scarso assolutamente, credo che sia uscito a pezzi dall'esperienza dell'Inter soprattutto per dei suoi imperdonabili errori di comunicazione, che non sono un dettaglio in una grande squadra, ma sono comunque errori più di comunicazione che di tecnica, e penso che sia un'ipotesi interessante. Chiaro che poi anche Montella sarebbe interessante, ma credo che a Firenze non siano d'accordo. Sì. Anche il ritorno di Spalletti potrebbe essere interessante. Detto questo, secondo me, poi se Garcia invece riuscirà a cogliere il secondo posto, cosa secondo me non facile, vista la Roma attuale, e se dovesse centrare il secondo posto, a quel punto penso che sarebbe confermatissimo. Tancredi si parla però anche di rivoluzione totale alla Roma sul fronte dei giocatori, vorrebbe dire ricominciare tutto da capo? Sì, ma più che giocatori, cioè in parte magari giocatori, anche la guida tecnica, a me la cosa che più titilla sul mondo Roma è se Sabatini dovesse rimanere o no, a parte che cioè, non posso credere, sarebbe una soluzione vorrei dire psicotica se Sabatini rimanesse fino ai primi di settembre e poi se ne andasse, cioè non avrebbe assolutamente senso, perché sarebbe come, non lo so, il marito che rimane in casa pur essendo separato, non avrebbe senso. Cambi prima del mercato oppure te lo tieni anche dopo l'estate. Però siccome ok, c'è stata dalla parte sua una mossa comunicativa per dire mi prendo io le colpe, ho sbagliato il mercato, però in verità è vero che ha sbagliato il mercato, forse ancora di più a gennaio che in estate, solo in parte in estate. Però se, siccome Mazzarri era una scelta già, un'opzione quando stava venendo Garcia, su cui c'era appunto la mano di Sabatini, questo allora vorrebbe dire è pacifico che Sabatini rimane. Ma se Mazzarri dovesse venire e poi Sabatini dice bene, perfetto, a questo punto vado con un coup de théâtre, certo, vuol dire, mi domandi di chi è questa scelta, se il testamento tecnico di Sabatini o di qualcun altro. In un minuto un ultimo gioco per tutti e due. Allora, nazionale, poi domani ne parliamo con calma, è una nazionale che ha pochissimi gol nelle gambe, c'è Zaza 8, ha preso più cartellini gialli che gol, Immobile una decina in totale in una stagione non brillante, Pellè non segna dal 20 dicembre. Pier, fammi una copia di attaccanti per la nazionale, plausibile. Vai, o a Tevez troviamo un trisavolo italiano oppure? Ecco, no, io punterei proprio sul trisavolo italiano. Per me la soluzione più semplice è questa, insomma. Adesso Messi, tanto abbiamo capito che Messi con l'Argentina non vince, quindi se si vuole togliere le soddisfazioni venga qua, perché qua noi quelle partite lì non le sbagliamo. Ecco, se arriviamo in finale del mondiale la vinciamo sicuro. Ti piaccio così tronfio un sì, po'. Sì, mi piace quindi, un sacco. Quindi andiamo a convincerlo. No, a parte andiamo... battute, io credo che sia chiaramente una nazionale ancora molto sperimentale che sta cercando di costruire un percorso. Non credo francamente che questa nazionale arriverà nel 2016 con un attacco coi fiocchi, cioè penso che noi saremo una squadra che sarà penso che Conte stia lavorando sull'idea di poter essere una squadra difficile da battere per tutti, una squadra rognosa, una squadra di enorme intensità, aggressiva, tatticamente poco decifrabile, e penso che queste qualità Conte pian piano riuscirà a instillarle e all'europeo speriamo di beccare le giornate giuste, ma dal punto di vista del potenziale, dello spettacolo, io non credo che abbiamo purtroppo la forza per poterlo diventare. No, abbiamo un talento offensivo allo stellone della condizione che i vari Immobile, Zaza o chi per loro destro magari destro, che non sembra un clamoroso ritorno di Sharawi fino al 2016 o un ancora più clamoroso ritorno di Balotelli, una chiamata di Osvaldo dall'Argentina che sta ormai lo sposo del cosa, Boca, ragazzi. Dimmi, questa doveva essere la nazionale dove i titolari fissi, inamovibili, che nessuno diceva niente per 3 anni, dovevano essere Balotelli e Giuseppe Rossi. Noi abbiamo avuto, rispetto a tutto il resto del mondo, una nemesi su tutti e due che levati, cioè va bene che non è un momento, già non è un momento felice per il calcio italiano, se poi anche quei pochi buoni gli deve accadere tutto di più, povero Conte. Sì, sono due casi molto diversi, sono due storie di grande fragilità, sono accadute tutte, una fisica, l'altra psicologica, di tenuta proprio di personalità in campo, quindi quindi comunque vada sarà un successo, comunque vada sarà un successo. Balotelli e Giuseppe Rossi, che sono potenzialmente due grandissimi giocatori, motivo per il quale non lo sono diventati del tutto, nel caso di Giuseppe Rossi è pura sfiga legata agli infortuni, nel caso di Balotelli ha qualcosa di più a vedere con la sua testa, però un motivo c'è per il quale sono quelle che hanno, sono quelli, cioè dovessi scegliere io nel complesso, astrattamente, Balotelli e Giuseppe Rossi sono la coppia per la nazionale. Tancredi, ti saluto. A voi ragazzi, ciao, a voi, grazie, ciao amico mio. Dalla stazione Termini Roma, ciao. A proposito di stazione, anche Parlo sta per salire su un treno, poi proviamo a ricollegarci, se ci riusciamo bene, se ci sono le grotte, ci proviamo, dopo la volta. Che io amo essere cazziato da De Luca che dice vedi alla Bari, vedi che non si sente niente, ma non è vero, guarda che non è vero, è solo De Luca. Ciao Giorgio, Pier, ci sentiamo dal treno, ciao. Partite in bilico, spot per noi. tutti convocati. E tentiamo questo esperimento ai confini della realtà. Parlo in collegamento dal treno. Ci sei? Come va? Bene, no? Bene. Come si sente? Perfetto. Perfetto, non ti muovere, non cambiare scompartimento. Però chiedi a De Luca, ti dice: Vedi che non si sente niente. Allora, c'è chi scrive Paloschi, Berardi per la nazionale, però sarei fuori moda, quindi Vasquez o Caca, penso sia più papabile Massimiliano da Udine, Dario, solito Dario dal Carmine, il nostro amico storico, Mattia Destro e Paloschi, oppure convinciamo Dybala, dai! Se Osvaldo fosse richiamato in nazionale sarebbe un'ulteriore scelta sbagliata compiuta da Mancini, che non lo ha saputo gestire e ha preso Podolski. Ridicolo, scrive un ascoltatore. Vabbè, sentiamoli invece gli ascoltatori, Piero. Tino Modena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo chiedere a Pardo, visto che fa le telecronache, sì, e magari incontra Garcia, se le chiede come mai ha spostato la chiesa dal villaggio, dal centro del villaggio. Glielo puoi chiedere, Piero, per favore. Glielo chiedo, anche se verrebbe letta come una provocazione. Però è abbastanza sorprendente questo spostamento della chiesa dal villaggio, il villaggio che rientra, la chiesa che va in periferia, perché veramente il calo della Roma quest'anno è una delle cose più pronosticabili e più sorprendenti della storia recente del calcio italiano, nel senso che ci può stare ovviamente con la squadra abbia dei cali, sì, ma così lungo, così intenso, passando da un livello così alto a un livello così basso è abbastanza incredibile. Se succede ogni 10 anni di vedere una squadra che peggiora in un modo così clamoroso o migliora in un modo così clamoroso da un momento all'altro, certo, quindi è qualcosa di abbastanza anomalo. Si è passati dalla crisi, quale poteva essere una serie di risultati negativi, alla rottura, alla fine di un progetto, di un ciclo, secondo molti. Patrick, provincia di Macerata, buonasera. Buongiorno. Volevo parlare del Milan in maniera un pochettino scherzosa, drammatizzare un po' la situazione. Due aspetti. Uno, il Milan è una squadra infarcita di vecchietti, ma gli unici due bravi che sono Klose e Tony l'abbiamo presi, quindi scegliamo male anche sui vecchietti, e questo lascia un pochettino pensare. Seconda cosa, mi ricordo bene che quando cedemmo per problemi di bilancio Thiago Silva al Paris Saint Germain, ci buttavamo molto su Gambiwa, che vinse il campionato con Montpellier quell'anno, mi ricordo, e in pratica neanche ce lo vendettero Yann Gambiwa. Figurati, è come se passassimo dalla Monica Bellucci alla Mazza Mauro e neanche la Mazza Mauro lascia scena con te, quindi capisci, è una cosa un pochettino drammatica questa qui, perché mi ricordo bene che pagine di giornali su Yann Gambiwa, che lo vediamo quest'anno, penso un giocatore della Serie B di centro classifica, onestamente. Sì, però io posso dire una cosa adesso sinceramente: Destro, Cerci, Menestro, Montolivo, Buonaventura, De Jong, il Milan non è una squadra. Diego Costa. No, voglio dire sì, i giocatori attuali del Milan, è una squadra di buon livello, non è una squadra da 38 punti, è una squadra che meriterebbe, secondo me potrebbe stare parecchio più su, poi sicuramente non a livello della Juve, ma era una squadra che poteva. Vedi che non si sente, direbbe De Luca. No, dai. Che tipo... Vedi che non si sente. Tra poco sentiamo Marchetti, ti fa quel giochino lì. No, Marchetti è il numero uno, glielo facciamo fare il giochino. Però ti dico che secondo me il Milan potenzialmente vale di più della classifica che ha. Quindi secondo me ci sono anche delle responsabilità per come sta allenando. Lo dico con affetto nei confronti di Pippo, che ha tutto il tempo ovviamente per diventare un grandissimo allenatore, però insomma non è una squadra secondo me da 38 punti. No, ma è una squadra totalmente priva di chimica più. Però Pierluigi, è una squadra totalmente priva di chimica, cioè non ha un'idea di gioco, non ha delle soluzioni alternative. E soprattutto non vedo giocatori che sono particolarmente coinvolti in questo progetto, cioè è un gruppo di giocatori di, se vogliamo, come dici tu, di buon talento, che non vale la classifica che ha, però non è una squadra compiuta. Questa è la sensazione che si ha vedendo giocare il Milan. Allora parliamo di Milan, di Walzer, di Spalletti al Napoli, di Mazzarri a Roma, di due allenatori e mezzo soltanto che sono certi per la panchina dell'anno prossimo. Il Io non sarò mai un peso perché, come ho detto, ho imparato a innamorarmi di questa squadra. Il giorno dove sentirò che non sono più utile, al secondo dopo mi farò da parte. Ho detto, so che tu hai fatto la tua domanda e l'hai girato molto bene, ma ho detto che parliamo a aprile perché abbiamo ancora tempo e dobbiamo concentrarci in quello che possiamo fare, che è vincere la prossima partita. Mi aspettavo di peggio, perché sono stato in altre piazze dove molto prima si cominciava a fischiare la squadra. Se la pigliano in quel momento con la persona più in vista, più evidente, con il responsabile, ma ci sta. Ritornereste sulla panchina della Roma? Che domanda è, io penso e devo esclusivamente pensare alla Fiorentina, quindi sono allenati benissimo da un bravissimo allenatore, quindi non credo che ci sia possibilità alcuna, almeno nel recente presente. Io ho un contratto, cerco di lavorare giorno dopo giorno e poi la società farà le proprie considerazioni. E Luca Marchetti, eccolo qua, la Sky. Sto ciao. Ballando, eh? Sì, anch'io. Sto ballando, no? No, se c'era Pardo ballavo con lui, ma oggi è in treno. Per fortuna tua. Bene, come bene, bene. Come stai? La Ternana? Beh, ero pure d'accordo con te, la Ternana male, mi pare. Hai d'accordo con questa cosa? Sul Milan? Sul discorso del Milan, sì, e questo mi preoccupa. Cioè? Ah, perché sei d'accordo con Pardo? Non posso essere d'accordo con Pardo, certo. No, ma posso chiederti una cosa, ma secondo te ha un senso, una domanda non tendenziosa, anticipo, ha un senso in questo momento parlare di Sarri, Ventura, di Klopp, di un allenatore a caso per il Milan dell'anno prossimo, o invece in questo momento si deve aspettare cosa succede, di vedere, di capire cosa succede all'interno della società? Ha senso parlarne se ci riferiamo a questa società. È chiaro che se cambia la società non ha alcun senso quello che diciamo. Quindi perché magari cambiano i diritti. Rebus sixtantibus. Sì, no, tutte le considerazioni che vengono fatte sull'allenatore del Milan sono se rimane Galliani, se rimane Berlusconi. Altrimenti non vale nulla. Perché perlomeno per quanto riguarda le notizie che ho io o che abbiamo noi a Sky, nel senso, noi ci riferiamo a chi sta cercando il Milan per la prossima stagione con questi dirigenti. Sì. Se dovessero cambiare dirigenti, magari arriva Maldini direttore generale con Mr. B, non so dirti su chi vanno, magari prendono Van Gaal, non lo so. Cambia magari anche il target, secondo me. Sì. Rebus sixtantibus, quale nome? Quale, Come te la comandi? Se lo dito ti fa subito. Dove sta lo dito? Non lo so, un po' che è in silenzio. Ma come in silenzio? Ho parlato l'altro giorno. Mi chiamavano lo tirchio, giusto Luca? Ho inventato il parametro zero. Aspetta, solito, dai, considerata la serie di vittorie, mi sembra abbastanza quieto in questa fase. Sì. Se dobbiamo parlare della Lazio, di quello che sta facendo quest'anno, bisogna fargli i complimenti, magari per altre cose no. Sì, no, ma, per altre cose no, certamente, per come ha costruito questa squadra sì, certamente sì. Ci fermiamo per un attimo traffico, poi torniamo con Luca Marchetti e Pierluigi Pardo. Sì, ma ho visto anche qualche settimana fa, era Conte, poi Montella, poi Sarri, questa settimana io, settimana prossima sono curioso di vedere chi sarà. Convocati. Allora, Pierluigi Pardo da Un Tremo per Yuma e Luca Marchetti dagli studi di Sky. Stiamo parlando di possibili movimenti di mercato. So che Pardo ha buone fonti in proposito, quindi chiedo conferma di un trasferimento importante che sarebbe venuto a Madrid. Sei pronto? Sì. Ci sei? Vai. Sì, ci sono. Dicono che Letizia Sagun, non so se l'ho pronunciato bene, sia passata da Cristiano Ronaldo a Cicerito Hernandez. Ti risulta? Ma sicuramente non è passata né qua né da Luca Marchetti, questo è il dato politico che mi sembra di sottolineare, per cui poi alla fine noi probabilmente non ci conoscono, perché se conoscessero noi, se conoscessero Marchetti, io penso che difficilmente potrebbero capitolare. Poi Marchetti le porta in queste trattoriole del Ternano, Narli, Narticiano, alle marmore, capito? Con queste ciriole, pasta, acqua e farina. Comunque è stato così anche Pardo, casacca, sì, ci vuole poco. Con le ciriole ci vuole poco. Con la ciriola, esatto. Comunque, risulta trasferimento, Luca, risulta. No. No, non so neanche chi sia, quindi ah, sì. Va bene, allora, allora ti facciamo fare un corso da Pardo. Sarà una roba spaziale, che dobbiamo. No, non ho dubbi. No, piuttosto piuttosto, per, invece, prima parlavamo della panchina del Napoli con Annesse e Connessi. Benitez va via, mi sembra chiaro, no? Secondo me sì. Secondo me sì. E questo sta disturbando non poco il cammino del Napoli, soprattutto in campionato, ha tolto serenità un po' a tutti, no? Sì e no, nel senso che il Napoli al campionato, purtroppo per il Napoli, dalle prime partite non aveva cominciato a perdere punti in maniera importante dalla coppia Juve-Roma, quindi si è concentrato più sul discorso Europa, sul discorso Coppa. Magari il trofeo alla fine lo alza lo stesso Benitez a fine anno, nel senso che probabilmente lui stesso sapeva che non avrebbe potuto vincere il campionato, posto che magari invece avrebbe potuto lottare per farlo. Io credo che Benitez, adesso prima sentivo la vostra, il servizio, no, sulla nota del valzer ad aprile, eccolo, aprile decideremo il futuro. Secondo me adesso rimanda a maggio, sì, perché Napoli comunque è ancora in corsa su due fronti per poter vincere qualcosa, però se rimanda significa che va via, dai. Sì, il nome di Spalletti è credibile? Molto credibile, per una grande motivazione, intanto perché è bravo, la seconda perché è libero. Cioè, se tu domani mattina vai a casa di Spalletti, ti fai firmare il contratto, lui non deve parlare con nessuno. Se vai a casa di Montella devi parlare con la Fiorentina, se vai da Mihajlovic c'è questa mezza promessa con la Samp per il rinnovo di contratto in caso di salvezza, c'è anche il Milan. Se vai all'estero non te lo dico neanche. Sì. E quindi Spalletti in questo momento è una delle ipotesi più credibili per tutti. Napoli in testa, perché comunque il Napoli è una società che vuole continuare a crescere, che si sta creando un nome a livello internazionale. Spalletti è già un nome a livello internazionale, pratica un buon calcio. Tutto sommato anche lo stile di gioco non è così dissimile da Benitez, 4-2-3-1 da una parte, 4-2-3-1 dall'altra. Sì, e faresti lo stesso discorso anche per il nome di Mazzarri a Roma? Guarda, Mazzarri lo ha cercato Sabatini e lo sappiamo, è stato in albergo, l'ho raccontato anche lui, no? Quei giorni che stava prima di andare, se si ricordiamo, poi, no? Quindi era uno dei nomi che Sabatini aveva sull'agenda. La domanda da fare a Roma è: Sabatini rimane a fare il direttore sportivo? Appunto, questa è la domandona che siamo posti anche prima, senza trovare una risposta, perché sarebbe curioso se Sabatini decidesse allenatore e poi se ne andasse, no? Ecco, sì, peraltro. Allora, io parto da un presupposto. Secondo me chi lavora sbaglia. Sì. È difficile ammettere l'errore, Sabatini lo ha fatto. È chiaro che non è stata una stagione entusiasmante per la Roma, anzi, soprattutto quarta fase finale. Se io fossi dirigenti americani, Sabatini me lo terrei, perché mi ha dimostrato di essere un ottimo dirigente. Al netto anche degli errori, cioè considerando anche gli errori. Certo. Trovarne uno altrettanto bravo non è facile, quindi ci penserei due volte. Ma infatti, se secondo poi me Sabatini lascia per problemi personali, per problemi di salute o per problemi per altre ragioni, cuore, non lo so, ecco, sì, capito? Sì, sì. No, non farebbe fatica a trovare un altro impiego. Secondo me, Carlo, Sabatini quest'anno ha avuto troppa mano libera. Sabatini è un genio del mercato, è uno straordinario scopritore di talenti, ha fatto fare alla Roma degli affari economici clamorosi in questi anni. L'ha fatto anche spendere molto, eh. Quest'anno l'ha fatto spendere molto, quest'anno si è fatto prendere la mano. Ma secondo me alla Roma manca la società. Alla Roma sai che ha fatto scandalo, comunque insomma ha creato qualche mugugno il fatto che Pallotta, gli ereditaria, non si è stato a Rotterdam a vedere Feyenoord Roma, no? A viaggiare con la squadra. Cioè questa distanza lunga un pochino si sente. E secondo me Sabatini quest'anno ha potuto agire con una libertà assoluta, che forse alla lunga gli ha fatto un po' prendere la mano. Sabatini è bravissimo, però ha questa passione per, cioè lui è un talent per l'acquisto. Lui è un talent scout, lui è uno straordinario scopritore di talenti. No, guarda, io invece gli piacciono un po' le teleste. Te la giro ancora un po' più dura, nel senso la Roma ha cambiato tantissimo da un anno a un altro, da una sessione di mercato a un'altra. A Walter Sabatini piace fare il mercato perché è bravo a farlo. alle volte compra troppo o vende troppo. Appunto, ha una passione, ha una passione, non una spesa, non tanto per la spesa, perché la spesa secondo me in un club come la Roma la deve sostenere. In questi 3-4 anni di Sabatini credo che la Roma abbia un disavanzo di 80 milioni di euro, che divisi in 4 anni non è tantissimo. No, certo, anche perché ha fatto eccellenti affari in uscita, che non dimentichiamo. E poi bisogna vedere anche quelli che ha preso adesso e che ancora non sono stati venduti. Faccio riferimento a Pjanic, a Strootman, cioè li ripiani subito gli 80 milioni di disavanzo fra spesa e guadagno. Detto questo, forse il problema è quello lì, cioè compra tanto e vende tanto, si muove molto. Sì. Un po' shopaholic, mi pare sì. Le grandissime squadre non vendono e comprano così tanto. Certo. Vendono così tanto le squadre medie. Sicuro, le grandi squadre inseriscono un pezzo importante per volta. In questo momento grandi pezzi non sono stati inseriti. Hanno anche la forza e le spalle larghe, anche se nella piata quello che si è comportato bene, quindi non era gestibile la situazione. Però hanno anche la forza di riuscire a tenersi certi giocatori perché hanno questa forza. Ragazzi, vi saluto perché Pardo vedi che non si sente e viaggio in treno. Luca Marchetti, Luca, mi fai lo scherzo del telefono che non perde più, dai Luca. Sento bene. Ciao ragazzi. Ciao GR, poi torniamo. Giampiero da provincia di Grosseto, stia lì che poi parliamo. Non si rendono conto che il tempo è finito. Finisce qua primo tempo. Tutti convocati. Tutti convocati ogni giorno dalle 2 alle 3 e mezza qui 800 24 00 24 per parlare di sport. Giampiero, provincia di Grosseto, grazie per averci aspettati. Grazie a lei, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno, senta, io volevo provare a dare una chiave di lettura sul momento del Napoli, nel senso che credo che Napoli aveva, mi pare era 4 punti dalla Roma in classifica, in piena lotta Champions, e dopodiché ha visto che la Lazio gli ha rubato 13 punti in 4 giornate. A questo ci aggiungiamo che il Napoli è stato sorteggiato con il Wolfsburg, per cui probabilmente ha capito che uno scontro insomma difficile, forse il più duro che poteva capitare nel sorteggio, e queste due cose messe insieme credo abbiano portato un po' di nervosismo nell'ambiente. Sì, però dovesse saltare anche il Wolfsburg. Posso aggiungere una cosa? Il nervosismo, certo, e l'andamento altalenante del Napoli è iniziato prima del sorteggio con il Wolfsburg, cioè già da un po' che il Napoli ha fallito diversi match ball per andare a prendersi a Roma. Sì, ma infatti il momento è molto più duraturo del solito. Se lei ricorda, probabilmente Napoli ha avuto questo tipo di problemi di discontinuità già da quando c'era Mazzarri, per cui insomma il problema è di lunga data. Ultimamente si è acuito perché chiaramente con il sorteggio che ci è capitati adesso le cose si fanno difficili. Probabilmente il nervosismo dettato dai tweet della società credo sia sfociato poi in un momento come questo. Guardi, io credo che il nervosismo in buona parte derivi, ma l'ho detto anche prima, dall'incertezza che c'è intorno alla conferma o meno di Benitez. Certamente è un fattore destabilizzante e per Benitez e per la squadra, quindi non sarà certamente l'unica ragione, ce ne sono delle altre, però credo che una delle ragioni più importanti sia quella. Poi aggiungiamo il fatto che, come dice il mio amico Giorgio De Luca, ma guarda Hamsik, che secondo me è la cartina al tornasole dell'andamento di questa squadra, perché su Higuain, che vuoi dire? Cioè Higuain è una delle superstar del campionato italiano. Gabbiadini da quando è arrivato ha solo fatto bene. Ci sono altri interpreti, Strinic, che poi si è fatto male, era un giocatore terribilmente importante per gli equilibri anche difensivi di questa squadra, quindi tutto stava andando per il verso giusto. L'unica cosa è che il giocatore barometro di questa squadra, Hamsik, è il giocatore più sostituito dell'intero campionato italiano, 19 sostituzioni, quindi questo vuol dire che qualcosa non funziona, forse non ha mai funzionato con Rafa Benitez, ed è il giocatore in grado di innescare meglio di ogni altro il potenziale offensivo che il Napoli possiede. Allora, c'è chi mi scrive della moto che inizia oggi, non importa qualcuno, a noi alziamo la mano, già in scaletta per domani e ne parleremo a lungo. Non c'è solo la moto, ma c'è anche la Formula 1 in questo weekend, una alla mattina, la Formula 1, una alla sera per questione di fuso orario, Malesia e Qatar, e c'è Alonso che torna. Tutto andava normale fino a quella curva 3 che, come ho detto, lo sterzo è diventato duro, anzi si è bloccato in una posizione, ho frenato, ho scalato due marce, però ho toccato il muro, non un impatto molto grande, però forse con l'angolo sbagliato quello che è per avere una cosa nella testa. Da quel punto si è seguito la procedura normale che è fare le risonanze, aspettare che tutto torna alla normalità, alla testa, e poi evitare soprattutto le prime settimane di fare sport di rischi o di fare attività di rischi, quindi non ho potuto andare in Australia e adesso siamo qui, sicuramente sì, un episodio di infortunio, ma allo stesso tempo molto fortunato di essere qua già. Sono contento solo se sento il mio amico Leo Turrini. Ciao professore. Ciao maestro Genta, come andiamo? Non c'è male, guarito anche Alonso, con un incidente destinato a restare uno dei grandi misteri insoluti della storia. Io direi che l'incidente di Alonso come oggi è caduto in prescrizione, nel senso che a questo punto comunque lui torna domani in pista. Vediamo un po' come se la cava, di sicuro piena luce sulle cause di quell'uscita di pista non è stata fatta, anche le parole che Fernando ha speso questa mattina in conferenza stampa sono vagamente contraddittorie, perché lui, hai fatto bene a farlo sentire, attribuisce a un guaio allo sterzo l'incidente, la McLaren continua a ripetere che sull'auto tutto era regolare. Quindi insomma, non lo so, io direi per uno spagnolo che va, venite, tanto che io devo sempre, gente, prima parlavi di Rafa, eccetera, uno che torna, che è Fernando, solo che temo che ad Alonso aver perso la memoria non sarà sufficiente per dimenticare le amarezze che infliggerà la McLaren, che per quello che abbiamo visto in Australia è addirittura la macchina più lenta del pianeta. Poi vorrei dare notizie del traffico sulla Pero Cormano. Non potete attribuire questa volta la colpa delle code a Kimi Raikkonen, perché egli medesimo si trova in Malesia, quindi non si tratta di Raikkonen, non è lui che vi sta ostruendo il transito. Tra l'altro invece è molto possibile che ci sia il Fiat Ducato dell'avvocato Montezemolo, che ieri ha detto, forse l'avrete letto da qualche parte, sulla Ferrari il silenzio stampa ancora per un po', e io immagino milioni di italiani che fremono e dicono: ma cosa gli scapperà mai dalla bocca quando deciderà di esternare a quest'uomo, che peraltro, lo dico per gli amici di Genta, è il figlio del Montezemolo che organizzò Italia 90, certo. Non crediate che sia la stessa persona che ha allestito il mondiale di calcio del 1990 in Italia e che ora tenta di portare l'Olimpiade del 2024, perché i colleghi del New York Times, mentre io sono fermo sulla Piero Cormano, continuano a chiamarmi e dicono: ma è il figlio di quel Montezemolo, ma non è possibile che in Italia 35 anni dopo lo stesso essere umano abbia la stessa carica. Io preciso sempre che si tratta del rampollo, caro Genta. Dimmi tutto, cosa vuoi sapere? Vai, fate domande, vai. Innocente, sì. No, prescritto. Ti senti prescritto o innocente? Questo è il punto. Innocente. La prescrizione è una cosa formale, sì, una cosa tecnica. Che praticamente in 9 anni non sono riusciti a provare la colpevolezza, ma hanno provato una cosa importante. Però gli ho fatto un mazzo così. Ops, scusa Leo, mi è scappato. No, ma fai pure, anche perché adesso io... L'hai citato tu. No, io ho detto, insomma, prescritto l'incidente di Alonso. Poi tu sai, per quanto riguarda Lucianone, adesso lo vogliono chiamare ai risarcimenti civili, no? Sì. Perché prescrizione non significa soluzione. Quindi io gli sono molto vicino, sperando che, insomma, tutto si risolva in una maniera non negativa per la sua vecchiaia, ma io sono qui per parlare di Formula 1. Ora, quando andrà in prescrizione il dominio della Mercedes? Non credo di recente. No, ma volevo chiedere un'altra cosa su Alonso, Leo, perché tu avevi detto beh, due le opzioni: o guasto alla macchina, magari la famosa scossa, o un problema più serio, cioè quello di un'ischemia parziale. Ora, vuol dire escludere questo secondo, perché sennò chi firma la licenza di un pilota che ha avuto un guaio di quel tipo? Adesso guarda, onestamente è una cosa buona, positiva, che Fernando abbia sfruttato tutte le visite mediche, tutti i test ai quali è stato sottoposto. Da questo punto di vista la Formula 1 applica degli standard molto rigorosi. Se ci fosse stato qualche dubbio sulla sua integrità, appunto, è quello che ti dico. L'avrebbe rimesso in pista. Ora, il fatto che lui dica mi è tornata la memoria e ricordo che fu un guasto dello sterzo, comunque, come ha detto lui in inglese tradotto maccheronicamente, un appesantimento dello sterzo a innescare l'uscita di pista, effettivamente è un'ipotesi di spiegazione, hai capito? Però, come ti dicevo poco fa, insomma, la McLaren, che è la squadra per la quale Alonso corre da domani in Malesia, continua a ribadire che invece sull'auto non è stata rilevata alcuna anomalia. Quindi, insomma, siamo in presenza di un bel mistero da mandare in prescrizione. Però volevo farmi dire una cosa, gente, fondamentale, sì. Perché parlavamo della prescrizione per la Mercedes, no? Tu hai visto quel video di Rosberg che si fa di corsa tutte le migliaia di scalini delle Twin Towers di Kuala Lumpur? Sì, visto, certo. Però avrai notato che hanno tagliato il frammento finale, eh? Sì. Perché quando lui è arrivato su in cima, l'ultimo scalino, Hamilton era già lì. Che anche in questo caso, il figlio d'arte purtroppo è stato battuto dal re nero della Formula 1. Era lì che si faceva un selfie. Io ritengo che Hamilton avesse preso l'ascensore, voglio essere molto sincero su questo. Però di questo non abbiamo le prove, perché la FIA non è in possesso di documentazione in grado di provare. La FIA di solito non offre mai, sai, infatti annuncia indagini, inchieste, poi dopo gli esiti sono sempre in grembo a Giove, sono sospesi. Detto questo, quanti di voi hanno visto la faccia di Raikkonen mentre Alonso egemonizzava la conferenza stampa di Sepang stamattina? L'avete vista o no? No, non l'ho vista, ma è la stessa di sempre. È imperdibile, ma andate su YouTube, perché naturalmente causa incidente, 30 minuti, 29 minuti di domande ad Alonso, è anche giusto, no? Sì. Da parte dei giornalisti, Raikkonen sembrava una sfinge finta. Era lì, secondo me, che armeggiava sotto il tavolino con le mani alla ricerca di una boccetta di vodka, no? Qualcosa per rianimarsi, perché è dovuto uscire. Allora, io credo che nell'anno che hanno trascorso insieme in Ferrari, Alonso e Raikkonen avranno parlato 29 secondi, no? Sì, totali. Tanto era la fiducia reciproca, no? Oggi il biondino, il santo bevitore, si è dovuto sorbire 29 minuti di monologo di Alonso, dell'asturiano. Ma vatti a vedere il video, è una cosa, l'espressione assente di Raikkonen, fantastica. Detto questo, sono convinto che il biondino farà una grande gara. Sì, ma sai che sono convinto anch'io. Ma poi c'è Toto Wolff che dice questa Ferrari può vincere, cui si aggiunge Hamilton che dice mi fanno un po' paura, cominciano a farmi un po' paura. Sai, caro Carlo, è una Ferrari salgariana, no? Sentiamo tutti Sandokan, noi che da Maranello ci proiettiamo sulla Malesia, anche perché abbiamo questo nuovo capo del reparto corse, Mr. Arrival, Maurizio Arrivabene, no? Che tu lo vedi e dici, ma questo sembra Iane. Sì. È piratesco. Insomma, tu adesso mi dovresti mandare però la canzone dei Fratelli De Angelis, eh? Sandokan, quella l'ha rifatta anche Baglioni in Anima Mia nel 1997, perché dà l'idea di uno spirito nuovo che finalmente si coglie tra le mura Ferrari e Marchionne nei panni di Lord Brooks, interpretato da Adolfo Celi, no? Il cattivissimo Lord Brooks, interpretato da Adolfo Celi, che diceva sempre non è mai abbastanza, non può bastare, non funziona. Catturate quei pirati, ecco, andate a prendere Hamilton e Rosberg, hai capito? Questa è, capito, la filosofia che Marchionne ha portato. Intanto nuove notizie sul traffico: Montezemolo non riesce a ripartire. Non riesce a ripartire, ma è sempre zitto sull'argomento molto, Ferrari. Molto lì, aspettate, perché lì sarà una cosa come il quarto segreto di fatti, ma quando parlerà, però è fermo. perché Marchionne perfidamente, dopo essersi consultato con Landini della FIOM, gli ha dato un ducato che non va. E non gli poteva dare una 500 di quelle nuove, una Jeep, una Jeep. Adesso non esagerare, però tornando alla Ferrari, mamma mia, a Sandokan, lo dico per il tuo pubblico, sono fermi per quello, è vero Cormano, è arrivato Sandokan, fammi sentire. Eccolo, grande. Siamo svegli, ora siamo preparati. Ma io ti ho detto, tu sei il Dostoevsky della radio italiana. Onestamente, prima di te c'è stato Orson Welles con la trasmissione sull'invasione dei marziani alla radio americana. Nonzio Filogamo quando faceva Cari Amici Vicini e Lontani, poi c'è Carlo Genta. Comunque, io volevo per questo dirti che stanno andando provando a mettere il sale sulla coda alla Mercedes, non con il caicco nei mari della Malesia, ma con 30 cavallini in più. Beh, allora, guarda, che la Ferrari abbia migliorato molto, diciamo così, la prestazione del suo power unit, come adesso si chiamano i motori in Formula 1, è fuori discussione, ma paradossalmente tu lo vedi dalla Sauber. La Sauber non aveva quella specie di motore da taglia erba in possesso della Ferrari, no? Che è un cosa erba, il motore Ferrari dello scorso, e ha fatto 0 punti per la prima volta nella sua storia. Adesso, con la versione aggiornata, è stata una delle macchine, diciamo così, protagoniste in Australia. Nasr è andato a punti. Quindi questa rimonta in termini di cavalli c'è, peccato che siano stati sottratti al ducato dell'avvocato Montezemolo, la coda si allunga, se state andando a Roppero per l'Expo, rassegnatevi, anche lì coda. Ascolta, no, parliamo, per chiudere, parliamo di politica? Dai, dimmi cosa vuoi sapere, sul Bomba Renzi sono qui, chiedimi, dai. Politica di Formula 1 che è più intricata rispetto a quella. Pensavo volessi coinvolgermi con Barisoni. No, volevo parlare di alta politica internazionale. Mi pare che, insomma, una crisi quantomeno di numeri sia alle porte. È già arrivato, ha sfondato i portoni e basta contare le macchine sulla griglia di partenza. E allora ci sono almeno 3 scuderie che non hanno il becco di un quattrino, no? Sì. La McLaren Honda, che ha i soldi, ha una macchina che farà definitivamente perdere la memoria ad Alonso, purtroppo. La Renault, che è il fornitore di Red Bull e anche di Toro Rosso, è in rotta con i bibitari. Se tu leggi i giornali, ma questo ti volevo dire, i bibitari non stanno simpatici a nessuno, No, ma i bibitari, devo dire, a modo loro sono dei geni. Finché vincevano loro, cioè fino a poco più di un anno fa, la Formula 1 era una realtà fantastica, un volano per il business, il meglio dell'immagine planetaria. Ora che perdono, a distanza di 15 mesi, sono lì che dicono è tutta una schifezza, sembra di essere sulla Piero Cormano quando c'è l'avvocato Montezemolo col ducato bianco, non si fa un passo avanti con la macchina, tutti bloccati, noi ce ne siamo. Sono abbastanza ridicoli sinceramente, anche perché parliamo di una scuderia che tra piloti e costruttori ha vinto 8 titoli mondiali, certo, in 4 anni, quindi che siano loro adesso a dire ah ma che brutta la Formula 1, se voglio dire questo agli spettatori, ai radioascoltatori di Genta e anche di Pardo e anche di Moggi, ma voglio dire, c'è poi un motivo se la Ferrari è così amata, perché pur perdendo non ha mai gettato la spugna, in 65 anni di Formula 1 non si è mai ritirata quando le cose andavano male, no. Tutti gli altri, la Red Bull oggi, la Mercedes in passato, la stessa Renault, la Honda, vanno, vengono, considerano l'automobilismo come un taxi, finché vinciamo ci stiamo, se no, insomma. E non è un bel modo. Io voler bene la Ferrari, Lord Brooke, Marchionne, andiamo a prendere i pilari, ma anche per questo voglio dire, perché la Ferrari comunque non ha mai rinunciato alla sua identità. Corre anche quando, come nel 2014, manda viene in pista pettinata delle carriole con ruote sgonfie, perché diciamo la rossa, perché ha perso la memoria, ma per cancellare il 2014 gli hanno fatto guidare una carriola. Anche io al suo posto avrei detto scusate, ma ho avuto un'amnesia, no? Ho 13 anni, sono al mare, ma mi sì, piacerebbe fare il pilota, queste cose qui insomma, ma è giustificato, voglio dire, povero ragazzo, gliene abbiamo fatte anche partire tardi. Vabbè, allora Leo, vediamo se in Malesia riusciamo a dare l'assalto dei pirati allo strapotere. Però sono un pronostico, purtroppo purtroppo come è arrivato prima di Rosberg grazie all'ascensore sulla torre là di Kuala Lumpur, io credo che Hamilton sia largamente favorito. È molto difficile nel giro di queste settimane. Però quasi. Se la Ferrari facesse terza e quarta, no? Ma sarebbe, no, ma infatti, ma guarda che io credo che comunque la gente della Ferrari stia aspettando il terzo e quarto posto. Se poi disgraziatamente salta via senza conseguenze un bullone alla ruota di Hamilton, ce ne faremo una ragione. Ciao Leo Turrini, ci sentiamo presto. Ciao Carlo, ciao. Grazie a Leo Turrini. Noi ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione. Siete tutti convocati naturalmente domani dopo GR delle 2 e dopo Europa 24, è chiaro. Ciao. Tutti convocati.